cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi, o in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci canteremo mentre scappi in volo. Ti sceglierai, dietro una scia un soffio, un velo, ti staccherai, perché ti tiene su soltanto un filo, sai. Altre stelle son disposte, solo che tu a volte credi non ti basti. Forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà